Beam Buster. Steve called me up and said, wanna hang out tonight. We could see an indie film or just grab a bite. I said, oh, Steve, you're cute, but a movie's not what I need. No offense, but I'd rather stay home. Benvenuti! Buonasera a tutti, benvenuti alla sesta puntata del podcast di Filmbusters. Carica proprio, mi sono appena svegliato. Buonasera ragazzi, buongiorno. Dal compleanno di mia cugina. Che ha fatto la laurea. Compleanno di Laura che ha fatto la laurea durante il giorno del compleanno. Vabbè no, casino, vabbè. Vabbè, io sono Alex Diro e come ci sono il Monco, come avete già capito. Saluta. E l'hanno capito. E ho capito, sei invadente, invadi, saluta quando ti nomino, no? Un saluto affettuoso a tutto il popolo dell'internet. È regolare. E poi abbiamo Intrinseco. Ciao! Nicolete. No. Sì, gay. Come abbiamo oggi... Come abbiamo già anticipato nella scorsa puntata in coda. Io non c'ero, aspetta. Tu ti davi consigli su film di Barbie, Minimary, sì, sorry. Poi inopportuno in quella fase. E anche molesto, oserei dire. Non si ripeterà. Non si ripeterà, dai. Speriamo che la connessione tenga. Allora, quindi, come stavo dicendo prima di essere interrotto in maniera molesta, in coda all'ultima puntata vi abbiamo detto che questa puntata sarà dedicata a quei film che non hanno trovato una distribuzione in Italia, ma che riteniamo meritevole di una visione. Sono un po' i film del cinema disperso, insomma, trovate anche diversi siti su internet dove ci sono liste di questi film decisamente meritevoli. E vabbè, iniziamo subito con i film senza ulteriori indugi. Che ne dite? Vabbè, facciamo questo listone con questo entusiasmo, facciamo questo listone argomentato di film. Comunque non ci sono news, dato che il Comic Con è finito a breve e noi non vogliamo parlare delle news del Comic Con, quindi abbiamo deciso di fare così. Dai, partiamo direttamente col primo film con entusiasmo, ce ne parla il Monco e parliamo di A Better Life. Sì, voglio fare un breve inizio, un'introduzione. Io non guardo i film nuovi e quindi ho dovuto fare un tour de force assurdo per trovarne. Ma se vai al cinema ogni sabato? Quelli sono nuovi, ma questi sono nuovi proprio. Quindi... Va bene. È stato davvero traumatico. Ho visto 18 film in 2 giorni. Mi fanno male gli occhi. Stanno a confondere trame. Sì, infatti credo di aver visto delle cose che non esistono realmente. Sono dei film molto più dispersi di quelli che pensate voi. E va bene. Il primo film è A Better Life di Chris Waits, che incredibilmente dopo una carriera spumeggiante in cui ha fatto New Moon, About a Boy, che quello era buono, American Pie, Bussola d'Oro, e ha fatto la sceneggiatura della famiglia del professore Matto, ha azzeccato un film. In pratica, riassumendo brevissimamente la trama, è il ladri di biciclette messicano, dove al posto della bicicletta c'è un furgone, perché il protagonista, che è il bravissimo Demian Bichir, che è stato candidato anche all'Oscar quest'anno, ma ha perso contro, come si chiama, Dujardin, e interpreta Carlos Galindo, che è un immigrato messicano a Los Angeles, che insomma è il classico immigrato che se ne sta sui bordi della strada e quando passa l'agricoltore che ha bisogno di un po' di manodopera carica su un po' di questi messicani. E un giorno ha l'occasione di comprarsi il suo camion da solo ed essere lui ad andare a caricare gli altri, e tempo 2 o 3 giorni che gli fottono il camion. Quindi l'indipendenza che era riuscito a trovare la perde subito. E tutto il film, insomma, non solo parla nella prima parte dell'acquisto del camion e poi nella seconda di riuscire a ritrovare questo camion che, insomma, ci ha speso anche i soldi della sorella che in questo modo non può ridarglieli. E insieme a lui c'è il figlio che è, se non sbaglio, è José Julián, un giovinotto che sarebbe il Bruno di là delle biciclette, che è un po' invischiato con le gang locali latino e il padre deve aiutare anche il figlio a uscire da queste gang. E, insomma, un ottimo film, stranamente appunto diretto da Chris Weitz, da non confondere con l'omonimo francese, perché c'è una Better Life anche francese, che però non c'entra niente. Che dire, da grande fan del film di De Sica mi è piaciuto tantissimo anche questo, molto simile, non so se è voluto questa sorta di remake. E bravissimo Bikir, che oltre all'Oscar è stato candidato anche agli Independent Spirit Award, agli Screen Actor Guild Awards, ha vinto a Santa Barbara, vabbè, un premio minore, ma insomma lì ha vinto, è stato candidato agli Oscar latini. Il film tra l'altro è entrato nel National Board of Review tra i top 10 dei film indipendenti dell'anno. Io ve lo consiglio, insomma. Ma si trovano facili i sottotitoli italiano su internet? Parliamo proprio illegalmente, certo. I sottotitoli sono legali. Sì. No. È il file del film eventualmente che è illegale. Sì, perché la gente potrebbe andarlo a vedere, si porta dietro il malloppo dei sottotitoli stampati, giusto? No, perché tu se acquisti il Blu-ray ci sono dei programmini che puoi muxare. Ma io non ce l'ho lettere pure sul computer. Vabbè, ma non ammettere che sei un ladro, dimmi solo se ci stanno i sottotitoli su internet. No, e qui c'è la sorpresa, non sono un ladro, perché l'ho visto in aereo, andando in America, quindi c'erano già i sottotitoli italiani stranamente dentro e quindi non so se si trovano, spero di sì. No, immagino che uno di queste comunità che realizzano i sottotitoli di film stranieri, immagino che comunque ce ne siano da qualche parte su Isla Fenice o Italian Sub, insomma. Yep. Dai. Comunque, speravo che uscisse, perché candidato all'Oscar l'attore principale non è un film così difficile, poi è di produzione americana, invece è uscito ufficialmente nel luglio dell'anno scorso e ormai c'è già il DVD dappertutto, quindi no, non credo proprio uscirà in Italia. Ah, ok. E passiamo invece a Raid Redemption. Vabbè, The Raid Redemption, adesso ne parla il Monco. Sì. sì, ovvio. E sì, il Monco. È ovvio, pure. C'ha pure ragione lui, sa. Sì. Sempre, io sono il conduttore... Il vostro dio, dovete lodarmi. Ma tu sei come il legno, un cattivo conduttore. Sì. A proposito di impianti industriali. Sì. Va bene, allora, sì, io vi parlo di The Raid Redemption, come lo dice Alessandro, oppure The Raid Redemption, di Gareth Evans, che è un film, penso sia comunque da far risalire al 2012, ormai l'avranno già visto in molti perché ha un grosso successo su internet, soprattutto si è diffuso grazie a internet, perché è un altro che è andato, ha circolato quasi soprattutto nei festival. Comunque, per chi è interessato, ad agosto è prevista l'uscita del Blu-ray, quindi sarà già reperibile legalmente. Dunque, sì, Gareth Evans è interessante il regista, perché è un gallese che faceva documentari, quindi film di tutt'altro tipo, però doveva fare questo documentario sul Silat indonesiano, quindi sulla lotta che vedete nel film, e gli è piaciuto così tanto che ha pensato di fare un film, una fiction, un'opera di fiction, e quindi ha tirato fuori questo The Raid Redemption, che a quanto pare è andato così bene che è già prevista una trilogia che vede come protagonista sempre lo stesso personaggio, Rama, interpretato da Iko Uwais, che è un esperto di arti marziali, che è diventato anche attore. Ho letto su IMDb che prima era un autista di camion, con una strana carriera. Sì, dunque, il film, la trama in breve, anche questo è un omaggio a vari film action del passato, per esempio Die Hard, Trappola di Cristallo, o addirittura, visto che ci sono le arti marziali, L'ultimo combattimento di Chen con la pagoda famosa a più piani. E insomma c'è questo gruppo di poliziotti, agenti speciali, allenati a questo tipo di lotta che si chiama Silat, che devono fare irruzione in un palazzo di proprietà di un boss della droga che è, a quanto pare, intoccabile, quindi non è mai stato arrestato né indagato per nulla. Allora, appena entrano le cose precipitano e praticamente vengono decimati in poche scene, e ovviamente rimane in piedi tra i pochi il protagonista Rama, che la recluta, nessuno si fida di lui, nessuno ha fiducia, però è piuttosto di tutti il classico eroe silenzioso che fa il suo ingresso discreto e poi spacca tutto. E la trama è, vabbè, comunque davvero stupida, e al di là dell'idea interessante dell'assedio nel palazzo, che è sempre molto bella, è molto utilizzata purtroppo, è molto esile, i dialoghi sono veramente imbarazzanti, sarà che i sottotitoli, come dicevamo prima, non sono magari sempre affidabilissimi, però davvero sembra scritto da un novellino. Situazioni proprio da telenovelas, parenti che si incontrano in situazioni impensabili, dialoghi da teatro scolastico, insomma bisogna dimenticarsi della sceneggiatura perché è quasi un macello, però è importante, insomma è famoso per le scene d'azione, quelle sono, diciamo, la cosa più interessante. Questo stile di lotta è molto coreografico, si presta molto al cinema, e Gareth Evans lo inquadra molto da vicino, con uno stile quasi con le telecamere a mano, insomma sta molto dietro agli attori e ci riesce abbastanza bene, riesce a trasmettere tutta la bellezza della lotta. Comunque questo Silat è basato sull'uso di, insomma, delle mani, ovviamente, dei coltelli, dei manganelli, delle pistole, proprio legato alle forze dell'ordine, quindi si ricorre a vari tipi di armi. È davvero splendido, divertentissimo, insomma ci si dimentica di tutti i difetti e si guarda queste bellissime scene di lotta che davvero meritano tutte le discussioni che stanno scatenando su internet. E tant'è che, insomma, il film piace così tanto che è sbarcato anche in dei festival in cui l'action non trova spazio di solito. È arrivato a Torino in concorso, se non sbaglio, e al Sundance, fuori concorso, ma comunque interessante. E niente, quindi... Ma quindi praticamente il principale criterio di differenziazione rispetto ai vari Young Buck è proprio il fatto che quest'arte marziale è molto più coreografica, principalmente. Sì, c'è anche una specie di diatriba su questo, perché ci sono i sostenitori di Young Buck che dicono... Insomma, è su tutt'altro livello. Tony Jaa si chiama il protagonista, non mi ricordo. Sì. C'è proprio la lotta tra i due a livello mediatico. Però insomma, io non saprei fare una classifica. È davvero bello da vedere. E sono molto diverse. A proposito di Young Buck, ci sono anche i sostenitori di Don Bucky che ci salutano sempre. Sì, è un esperto di arti marziali, non tutti lo sanno. Quindi sì, no, non so, secondo me è abbastanza diverso, abbastanza interessante da non meritare un paragone, quindi non so, non mi sento di fare confronti da questo punto di vista. È davvero bello, per il cinema si presta molto, perché è basato su posizioni statiche, cioè vari centro basso, posizione ferma e poi da lì tutte le mosse, un po' come quel tipo di lotta che promuoveva Bruce Lee. E poi è bellissimo, sfrutta l'ambiente, le porte, i coltelli, tra l'altro bellissimo perché l'uso dei coltelli è davvero concreto, sembra davvero che queste pugnalate arrivino su dei corpi, e lo usano davvero tanto, sembrano dei punteruoli, le povere vittime di Rama. Bellissimo, comunque sì, sono previsti due sequel, e per i fan dei remake americani è già in lavorazione un remake americano prodotto sempre da Evans. E un'altra news, io probabilmente ho visto la versione indonesiana, comunque sembra che quella americana, che uscirà in Blu-ray fra poco, sia stata curata delle musiche da Mike Shinoda dei Linkin Park, quindi non avendo sentito non capisco perché questa cosa è differente, insomma, io ho visto, quindi ripeto, forse l'originale mi è sembrato, le musiche poche ma utili, quindi non capisco la differenziazione. Comunque molto bello, bella fotografia, anche poco addolcita, molto buia, concreta, insomma non serviva a nulla, volevo solo mettere in scena questi attori. C'è anche un omaggio a Hard Boiled di V, perché è un personaggio che si chiama Mad Dog, e se non sbaglio il regista stesso ha detto che si è ispirato molto a Dark Boiled per il fluire della trama molto veloce, infatti il film è serratissimo. L'unico appunto che mi sento di fare è il duello finale, che è attesissimo, ma forse delude un po', è un duello a tre, questo già lo rende interessante, però è dura una mezz'ora, ricorda quasi la scazzottata di Essi Vivono, per quanto dura, però comunque beh, sono più belli i pestaggi precedenti, secondo me, più realistici. Quello è proprio un duello quasi da ring, troppo preparato. Non so se il Monco voleva dire qualcosa, perché lo sentivo farfugliare mentre parlavi. No, mi stava venendo un infarto. Mi ha dato la solita sensazione che ho quando guardo i film action asiatici. Ma questi si fanno male davvero, perché tirano delle craniate, delle mazzate terribili che... Dici, come hanno fatto a essere degli stunt? Questi si fanno male davvero. E in effetti è così, perché il morto ogni tanto ci scappa e si fanno male molto, ma molto, molto. È un consiglio da scusate, perché io non voglio aspettare i sequel. Cioè, Ivan ha girato già un film con Iko Uwais, il protagonista, e si intitola Merantau Warrior. Non è altrettanto bello, mi hanno detto, ma me lo procurerò e lo consiglio. Dai. Okay. Vabbè, allora passiamo al prossimo, ovvero il mio The Grey. Allora, The Grey un film di Joe Carnahan, che era un regista lanciatissimo dopo aver girato Narc, un film che sinceramente io non ho visto, però desto senza dubbio l'attenzione dei produttori di Hollywood, specialmente di Tom Cruise. Non si è sentito parlare di Carnahan perché sembra che ci siano state delle divergenze artistiche tra lui e Cruise riguardo la direzione di Mission Impossible 3, e quindi insomma questo regista è cascato un po' nel dimenticatoio. Quindi torna alla regia con questo The Grey, con un attore protagonista secondo me fantastico, che è Liam Neeson, o Liam, non me lo ricordo qual è la pronuncia giusta. E vabbè, insomma, il film parla di questo personaggio che fa il lavoro più bello del mondo. Vero, è un killer assoldato da una società petrolifera che lavora in Alaska, e praticamente quando gli operai vanno a fare delle modifiche sulle tubazioni o all'esterno comunque dell'impianto petrolifero, lui si mette lì col suo bel fucile da cecchino e spara ai lupi che tentano di fare degli agguati nei confronti di questi poveri operai esposti al freddo e al gelo. E all'inizio vediamo che questo personaggio è abbastanza tormentato, insomma la moglie l'ha lasciato, quasi spinto al suicidio, tuttavia si imbarca sull'aereo che lo riporta, immagino, negli Stati Uniti veri, non nell'Alaska, che penso sia una sorta di ghiacciaio enorme degli Stati Uniti. Durante il viaggio, tuttavia, succede qualcosa, l'aereo precipita. E quindi si ritrovano nel bel mezzo del nulla, braccati da un branco di lupi che cercano di sbranarseli, lui e altri operai che si trovavano nello stesso impianto, e quindi parte una sorta di sfida per la sopravvivenza, in cui ovviamente questo, che sarà comunque coronata da morti più o meno cruente, insomma, e la trama in soldoni è questa qui. A me è piaciuto molto, perché trovo che questo regista innanzitutto è comunque un film misto action horror, e ritengo che comunque Carnahan abbia gli strumenti adatti per girare un film del genere. Infatti ci sono le scene comunque degli agguati di lupi che secondo me sono fatte benissimo, la presenza della minaccia del lupo si sente in maniera quasi costante, e secondo me una scelta saggia che ha fatto è non abusare troppo, ad esempio, degli effetti speciali, perché immagino che il budget fosse ristretto, mi pare che non andava oltre 20 milioni di dollari, e quindi saggiamente ha deciso di inquadrare i lupi solo fuori fuoco, dalla prospettiva appunto dei sopravvissuti, e comunque li inquadra pochissimo, insomma non è che li vediamo mai in maniera esplicita. Quando li vediamo in primi piani di solito si vede che sono un po' dei pupazzi, insomma non sono poi troppo realistici, però quello che dosa bene secondo me è la suspense derivante dal fatto che questi sopravvissuti sono braccati in maniera così intensa. Altra cosa che mi è piaciuta molto del film, oltre ovviamente all'ambientazione che è, secondo me è straordinaria, sono i personaggi. All'inizio comunque questi personaggi non si conoscono, è un po' straniante diciamo la vita in questi impianti petroliferi, poi ovviamente la... un cliché abbastanza abusato, però la situazione diciamo straordinaria li porta a conoscersi e quindi a stringere rapporti. Comunque questi personaggi evolvono anche durante il film, nel senso che vediamo che il burbero, insomma, che senza paura diventa una sorta di agnellino. Alla fine c'è una scena molto bella di un personaggio che per la prima volta si presenta a un suo collega, sebbene l'abbia sempre chiamato insomma per cognome. E niente, insomma, Liam Neeson o Liam di nuovo, Liam Neeson ha ammesso che è stato il film del quale va più fiero. Magari può sembrare un'affermazione di Ibrahimovic. Sì, no, sì, appunto, alla Ibrahimovic, insomma, una marchetta, però c'è un finale a sorpresa. E non è, sicuramente non è come lo intendete voi questo colpo di scena, nel senso che uno si aspetta ovviamente qualcosa che di paranormale riguardo i lupi, cazzate del genere, insomma. E se si conosce, se andate un attimo su Wikipedia a farvi diciamo una cultura sugli eventi della vita recente di Liam Neeson, capirete che effettivamente è vero, che è probabilmente vero il fatto che è orgoglioso di questo film. Diciamo che lui si è sentito abbastanza immedesimato in questo personaggio. E, non lo so che l'ha visto anche il Monk in Trinity, quindi ormai c'è il Monk sulla punta della lingua e non me lo levo più. Sì, l'ho visto, è piaciuto molto anche a me, e come dicevi tu è una cosa che vedo, hai notato, che sembra sempre scivolare verso il cliché, come molti film che vedono i protagonisti sopravvivere in condizioni estreme. C'è il burbero, lo stronzo diciamo pure, che c'è, però sì, cambia, si evolve, però c'è, il modo in cui cambia mi è sembrato un po' troppo repentino, comunque e già lo rende abbastanza diverso dagli altri del genere. E poi appunto mi piace che ogni volta che sta per scivolare verso il cliché cambia, e soprattutto c'è una scena in particolare che non dico, tu probabilmente immaginerai quando sta per succedere una cosa, succede, la vedi succedere, però speri che non sia quello che pensi, e poi cambia e ti dà, insomma, ti fa sentire meglio, perché il film si rovina, quando invece sembrerebbe proprio che stia andando in quella direzione. Molto bello, sì. A me è piaciuto appunto questa idea dei lupi, non mostrarli troppo, e soprattutto quando li mostri è terribile, perché questi protagonisti finalmente si rilassano intorno al bosco e bam, arriva un lupo alle spalle e li massacra, è terribile, non ti rilassi mai. Non so adesso i lupi se si comportino veramente così, non sono un esperto, a volte mi è sembrato un po' artificiale come comportamento, non so se il maschio alfa vada così da solo a provocare delle prede, però credibile, è una scena bellissima. E pronto? Scusate. Quando i protagonisti cadono in una specie di dirupo, grotolano giù da un crepaccio e si credono al sicuro, e insomma c'è anche la provocazione del burbero che dicevi tu, e si vedono solo queste colonne di aria che escono, gli ululati dei lupi, non si vedono i lupi ma si vede il fiato dei lupi che ululano. È bellissimo, è una scena molto cioè bello, è davvero ben usato. Poi il finale, non dico niente, ma mi faccio scendere la lacrimuccia. È facile fare finali così, però è bello. Le musiche, no, è vero, mi piace. Ecco, però, come dici tu, è facile, però anche il fatto che riprendo un discorso che sembra apparentemente chiuso, io sinceramente non me l'aspettavo quel finale così. Quindi, secondo me è un colpo di scena abbastanza riuscito, perché comunque quel discorso sembrava averlo chiuso sin dall'inizio. Sì, sì, quella parte, no, io dicevo l'ultimissima scena, un po' dall'aspetto. Ah, però sì. È bella, no? Quella citazione in chiusura, no, è un film che riscalda, è freddo ma è bello, emozionante. tra l'altro c'è anche una scena, una brevissima scena, veramente pochi fotogrammi dopo il dopo i titoli di coda, che sinceramente non è che ho capito tantissimo, però vabbè, più che altro non ho capito la finalità di quella scena, però insomma non ve ne andate fuori dal cinema prima di vedere sì, la fine di quale di coda. Cinema? Il cattivo del film dopo è Magneto, sì. È il lupo mannaro, sì, è Wolfman. Allora, vabbè, non so se vogliamo aggiungere qualcos'altro. Procediamo. Quando hai detto Grey e il lavoro più bello del mondo, pensavo che fosse il biopic su Sasha Grey, ma invece no, eh. Ah. Non so, no, è il non lavoro è più bello del mondo, quello, non lo so, non lo so. Beh, per lei, sì. Ma non lo so, sì, se si diverte allora sì, vabbè. Sicuramente. Ma non so, ma quale lavoro? Quello di prima o adesso che scrive i libri per bambini, no? Perché è un po' ambito. Libri? Hai libri? Allora sì, allora certo. Ma seriamente scrive libri per bambini? Adesso sì, ne ha scritto almeno uno. E quindi Eva Enger fa scuola? Si è ripulita, solo che almeno non è come Claudia Cole, che sai, ha le fulminazioni religiose, no? Fa TV bianco, e... Vabbè, un po' come Eva Enger, insomma. Che sì, sì. Scrive con un chiostro bianco, dicono. Vabbè, dai, questa era facile, però, Cioè, dai. Siamo scade veramente a livelli eccessivi, dai. Dai, parlaci di Helpless, piuttosto, dai. Dai! No, siccome è coreano, chiamiamolo Hoa Cha. Allora, che bel nome. Ma che vuoi? Subito a criticare gli asiatici, lui sì, che odia tutti quelli che asiatici. Che asiano soprattutto, sì, Asia Argento soprattutto. Vabbè, lì è facile odiare. Vabbè. E, allora, anche qui introduzione al cinema coreano. Oh, ma vi siete accorti che dal 2000 il cinema coreano spacca? No, perché non arriva un cazzo qua, a parte i film di Park e, boh, A Bittersweet Life, non è arrivato granché nulla. E però se voi andate a vedere di horror ne fanno alcuni, vabbè, per me tutti fanno schifo, però insomma riscontrano anche parecchio successo. Action ne fanno bene, avventura, d'amore, commedie, drammi, insomma fanno tutto bene. E Helpless è un giallo, anche se IMDb mi sembra che lo metta sotto horror, ma più che altro è un giallo, non ci vedo più horror. Nulla, horror io. Mystery. Vabbè. E insomma, Moon Ho Han e la sua fidanzata Seon Yeong Kang stanno andando in macchina in questo viaggio dai genitori di lui per annunciare che si sposeranno a breve. Si fermano, insomma è una coppia felicissima, non c'è niente che faccia pensare il contrario. Si fermano a un autogrill, che si chiamano così anche in Corea, sono praticamente sicuro di questo. E si ferma in questo autogrill e lui va a prendere un paio di caffè, torna e lei è sparita. Così, proprio, sembra che non sia mai esistita. Trova per terra un suo fermaglio, ma non c'è proprio traccia. Chiede alla polizia, chiede di annunciarla agli autoparlanti, ma niente. E insomma, siccome è innamorato non si dà pace, la cerca in tutti i modi e più scopre che proprio un attimo prima di scomparire aveva ricevuto una telefonata dalla banca in cui diceva che lei non poteva ricevere una carta di credito perché era già stata in bancarotta in passato e quindi non gliela potevano dare. Da qui Moon Ho Han scoprirà varie cose sul passato di lei, prima di tutti che quello non è il suo vero nome, quella è un'altra donna che ha avuto un altro passato e che non conosce, e insomma tante altre cose di questa donna di cui non sa nulla, che era la sua fidanzata e che ha avuto più personalità, quindi forse qualcuna che addirittura uccide le persone e ne prende tutte le... il nome, l'indirizzo, tutta la personalità, insomma. È un giallo intricatissimo, più che altro perché è difficile davvero questa volta capire i volti asiatici, riconoscerli. E niente, alla fine è un po' come tutti gli altri gialli, c'è tanto fumo, ma l'arrosto è poco e magari si corre il rischio di non capire granché, ma alla fine... La base, il necessario si capisce benissimo. La regista si chiama, anche qui sarà complicato, Yongbu Yun, che è una donna, ma se voi andate a cercare le foto non ci scommettereste sopra. In Corea è stato un successone, è uscito da poco, ma questo è il classico film che non uscirà mai in Italia, ma credo che non uscirà mai neanche dall'Asia. È tratto da un romanzo giapponese di Miyuki Miyabe, che è famosissimo in patria per questi suoi gialli, che si chiama All She Was Worth. E boh, ma ha pure vinto al Baek-sang come miglior regista, lei, sta Bu Jung. È un bel giallo, bisogna stare molto attenti, ma è onesto, anche intrinseco l'ha visto, anche lui è appassionato come me di gialli, vediamo la sua, vediamo, sentiamo. Sì, è più o meno condivido anche le critiche, diciamo, anche se non sono tali, cioè, è un po', richiede un po' di attenzione, anche perché mi è sembrato che in alcuni passaggi non fosse proprio chiaro quanto basta, perché io per esempio, al di là dei volti, dei problemi che possono nascere dalla disattenzione, mi è sembrato proprio che in un paio di svolte non ci fosse una spiegazione, che per carità non sempre serve, spesso stona, però in questi casi alcune azioni dei personaggi le ho capite solo qualche minuto dopo di loro, per esempio mi riferisco all'investigatore che a volte segue delle piste, ovviamente non parlando, non avendo la classica voce narrante, fa delle scelte che non vengono spiegate, poi hanno un senso, comunque sì, appunto, basta seguirlo con la giusta attenzione. Mi è sembrato forse un po' troppo lento, soprattutto nella seconda parte, perde un po' ritmo e ci sono un po' troppi tempi morti, anche perché l'indagine va a approfondire aspetti che io per esempio personalmente ho trovato meno interessanti. Diciamo che è tutto chiaro già a diciamo due terzi di film, però poi sì, c'è da chiarire una donna piuttosto che l'altra, cosa è successo, cosa non è successo, quello che succede dopo. Secondo me si ammoscia un po', però ecco, mi è piaciuto e sì, insomma, un discreto giallo, ben scritto. Qualche passaggio è forse un po' troppo da giallo di seconda scelta, per esempio mi riferisco alla scena della valigia, che non spoiler perché non si capisce, però insomma certe cose succedono perché sì e si prosegue nell'indagine perché sì, però sono proprio pochi momenti e non rovinano quello che c'è di buono. Sì, diciamo che a me è piaciuto moltissimo l'inizio, proprio l'idea di una donna che scompare e devi scoprire tutto quello, poi non era la donna che tu credevi, e in effetti la seconda parte è moscia perché è un film troppo lungo per quello che... Sì. Appunto, a metà non dico che puoi già chiuderlo, però hai già tutto in mano e potrebbero chiuderlo in pochi minuti, però la tirano un po' per le lunghe. Sì, in realtà già dopo 20 minuti, cioè quando lui scopre che lei non è lei, sì, poi può esserci la curiosità del capire perché e per come, però già lì ti fai un'idea di quello che è successo, sì... Forse proprio perché soprattutto... è basato su un libro e nel libro queste cose funzionano meglio, la divagazione, l'approfondimento te lo puoi permettere. Ma soprattutto il flashback col marito di lei, che sì. Potevi chiuderlo in un attimo, invece gli dedica un po' troppo spazio. E poi sì, come dicevi te, il detective, che forse è suo fratello, non si capisce bene. Cugino, credo, dice forse la prima scena in cui lo vede, ma non ho capito bene anch'io. Sì, chiama il figlio di lui nipote, quindi boh, qualcosa, sono sicuro imparentato. Sì, va bene. Sì, è un detective, quindi è più furbo di lui, sa meglio cosa fare, però è vero, in alcuni passaggi fa delle cose che non spiega, fa al volo, sono giustissime, poi riescono sempre ad andare nella stessa direzione, nonostante facciano quasi due investigazioni su piste private, alla fine su piste diverse riescono sempre arrivare tutti e due alla stessa soluzione, però vabbè, insomma, come tutti i gialli, ha gli stessi errori, sì, insomma, errori tra virgolette, solite cose da giallo. Passiamo invece a Kill List, dai, con Ale. Senza colazione di continuità, dai, vai. Intrinseco, non il monco. Allora. Intrinseco, no, ormai non lo dico più, dico solo il titolo del film e poi chi inizia a parlare si arroga il diritto di parlarne. Perfetto, dai. Ok, Kill List, un altro, qui attacco con gli horror, mi dispiace per i non appassionati, un film del 2011 che credo sia, cioè sicuramente è già uscito in Blu-ray, è un film inglese, in Inghilterra c'è già da un po', fuori dal mondo, non lo so, cioè fuori dall'Inghilterra, nel resto del mondo non so se sia arrivato, tant'è che vedo che gli americani addirittura comprano in Europa, perché questi film non arrivano neanche lì, almeno non subito. Comunque, Kill List di Ben Wheatley, credo si pronunci, che viene dalle commedie, da quel poco che ho visto su IMDb, quindi è molto strano, anche perché non è un horror comune, non è un horror che può fare uno che viene dalla commedia, è una roba abbastanza forte, quindi sorprende questo tipo di cambio di toni. Non dico perché è un film basato sui colpi di scena, sulle rivelazioni, quindi la trama in breve, insomma, c'è questo il protagonista è Jay, che, scusate, l'ho visto un po' di tempo fa, non ricordo esattamente, comunque ha combattuto in guerra, è un soldato, e in una delle ultime missioni comunque ha dovuto fare qualcosa che evidentemente lo tormenta. Per arrotondare un po', dopo queste missioni, visto che sta a casa a poltrire, si accorda con l'amico Sam, un attore bellissimo, Harry Simpson, una faccia splendida, il vero inglese coi dentoni, però molto simpatico, e si accorda con questo altro soldato per fare l'assassino su commissione. Praticamente prendono dei contratti, trovano delle persone e le eliminano, cittadini normali, insomma, roba illegale comunque, e soltanto che si imbattono in questo gruppo di cui non è ben chiara l'identità, l'origine, che cosa fanno esattamente, comunque una comunità che li recluta per eliminare una serie di contatti di individui che hanno dei nomi che li definiscono nella loro professione, il prete, adesso non ricordo tutti quanti, comunque hanno dei nomi in codice. E non c'è nessun perché, non c'è nessun per come, loro vanno, li uccidono e passano il nome successivo di questa kill list, finché arrivano a un potenziale pedofilo di cui scoprono il covo, si accaniscono un po' troppo e insomma la trama prende una piega più turbolenta. Comunque è un film molto forte, intanto per come è impostato, molto freddo, realistico, questa regia che va molto adesso, digitale, telecamere a mano, molto vicina agli personaggi, molto pochi filtri, poche cose che si frappongono tra l'obiettivo e i personaggi, quindi è un senso di realismo molto forte. E poi perché, quindi non posso parlare, ma comunque è forte per le situazioni che man mano si presentano, al di là di quelle che si vedono già nella prima parte del film, dove ci sono mutilazioni o morti più o meno truculente, ma è uno di quei film che ti dà il colpo di grazia nel finale. L'hanno paragonato ad altre pellicole, secondo me, con paragoni che spoilerano il finale, perché se uno ha visto la prima arriva alle dovute conclusioni. Io non voglio fare questo errore, mi dispiace perché è un film che se ne può parlare bene solo rivelando certi passaggi, comunque lo capirete meglio magari dopo averlo visto. È bellissimo, forte, non è per tutti perché è abbastanza brusco, il classico cinepugno, e quindi mi fermo qui. Ha anche un ottimo cast, soprattutto c'è una bellissima attrice, Mai Anna, credo si chiami, proprio Mai Anna Buring, fa la moglie del protagonista, è una biondona nordica, davvero gelida ma molto bella. Il protagonista è insomma un uomo qualsiasi, davvero Neil Maskell, ha una faccia da, insomma, potrebbe essere un vicino di casa tranquillamente, anche Harry Simpson di cui parlavo prima, sono dei volti amichevoli. E niente, bellissimo, ha delle scene davvero portentose, non solo per la violenza ma anche solo per situazioni claustrofobiche o visivamente particolari. È molto ben curato, questo regista è da tenere l'occhio, speriamo che sull'horror ci si fermi un po' perché i presupposti sono ottimi. E chiudo, non so se voi l'avete visto, se no si passa. Nope. No, nemmeno io. Vabbè, allora passiamo oltre, passiamo al mio Coriolanus. Sì. Sì. Tocca a moi. Allora, Coriolanus è un film diretto e interpretato da Ralph Fiennes, ed è in buona sostanza un adattamento, se addirittura di adattamento si può parlare, secondo me certe battute l'hanno proprio prese di peso dalla fonte originaria e riportate nella sceneggiatura di John Logan. Dicevo, quindi è un riadattamento della tragedia di William Shakespeare, Coriolano. La particolarità del film è che non è un film in costume, quindi non è un film ambientato nell'antica Roma come la tragedia di Shakespeare, bensì è ambientato ai nostri giorni. C'è questa diciamo fantomatica Roma che appunto è in guerra con la tribù dei Volsci, e c'è questo Coriolano che è un generale moderno, insomma, sembra quasi di vedere i Desert Storm in Iraq, insomma, cose del genere, tutti bardati con fucili e con mimetica. Dicevo, c'è questo generale Coriolano che coltiva una rivalità con Aufidio, un generale appunto dello schieramento dei Volsci. Rientrato a Roma dopo aver ottenuto una guerra, dopo aver vinto una battaglia a Corioli, da qui appunto il nome Coriolano, viene nominato console dal, come si chiamava, il senatore, non Menneo, una cosa del genere, non mi ricordo. Dal console precedente. Sì, no, però c'era il supporto di Menenio, che era un senatore. Sì. Tuttavia, essendo un uomo abbastanza integerrimo e fermo nelle sue posizioni, lui odia la plebe, proprio per questo non ottiene il supporto dei tribuni della plebe, e viene considerato quindi un traditore della patria, proprio perché non si abbassa a compiere una sorta di rito che i consoli erano costretti a fare nei confronti della plebe, e quindi viene esiliato. Durante il suo esilio va nel campo dei Volsci, stringe quindi un patto con Aufidio e marcia su Roma. Tuttavia alle porte di Roma verrà fermato dalle preghiere della madre e della moglie. Deciderà quindi non attaccare Roma, ma verrà giudicato traditore da parte dei Volsci e quindi verrà giustiziato. Allora, all'inizio è un film abbastanza straniante, perché comunque tu vedi tutti questi soldati che mettono in atto una sorta di guerriglia urbana, insomma, con fucili, bombe, con granate, insomma, cose del genere, e a un certo punto comincia a sentirli parlare in maniera abbastanza forbita, perché insomma le battute sono le stesse della tragedia di Shakespeare, quindi all'inizio c'è un po' di straniamento, poi però man mano col progredire del film comunque ti appassioni a questi personaggi, che comunque questa tragedia è estremamente potente da questo punto di vista, è molto ha una tensione drammatica molto efficace, insomma, e essendo quindi un film di derivazione teatrale, poggia quasi tutta la sua efficacia sulle performance di questi attori. La performance innanzitutto di Ralph Fiennes è straordinaria, straordinariamente intensa, ma soprattutto emerge dal film la figura autoritaria materna, che è interpretata da Vanessa Redgrave, che è un'altra grandissima attrice. Devo dire che mi è piaciuto molto e mi ha colpito, perché innanzitutto è un film che anche la messa in scena, ad esempio, mi è piaciuta, perché Ralph Fiennes gira tutto con la telecamera a mano, una fotografia abbastanza, dai colori abbastanza desaturati, e niente, mi è sembrata comunque efficace anche il ritmo della pellicola, che non stanca mai. Casomai uno così per ignoranza sente il nome di Shakespeare si aspetta qualcosa di abbastanza pesante, invece è un film piuttosto leggero da questo punto di vista, almeno per quanto mi riguarda. Insomma, non mi sono mai annoiato durante la proiezione, e niente, insomma, nel cast c'è anche Jessica Chastain, che, come abbiamo già detto, interpreta sempre la moglie, insomma, la moglie di famiglia. C'è anche Gerald Butler, che interpreta il generale avversario di Coriolano, e un altro attore grandissimo, secondo me, non mi viene il nome. Era Ralph Fiennes. No, non era Ralph Fiennes. Brian Cox, esatto, ecco. Sì, Brian Cox, lo dico qua così almeno possiamo poi tagliuzzare tutto quanto. E niente, è un film che ha incontrato in patria il favore della critica, infatti su Rotten Tomatoes ha una percentuale di recensioni positive del 92% circa, mentre invece il pubblico non ha risposto altrettanto favorevolmente, perché mi sembra che al botteghino ha incassato veramente poco, insomma nell'ordine delle centinaia di migliaia di dollari, insomma. E è un film secondo me poco esportabile, non so se l'intrinseco condivide, perché secondo me dovrebbe essere proiettato nelle sale italiane con i sottotitoli in italiano, ma l'audio dovrebbe essere lasciato quello originale, perché secondo me ridoppiare delle, la recitazione poggia tanto anche sulla voce, quindi ridoppiarli secondo me non renderebbe giustizia. Al massimo ridoppiati da interpreti italiani di Shakespeare, se ce ne sono ancora di grossi. Sì. Ma a me ha sorpreso meno, perché non ho già visto un adattamento del Riccardo III con Ian McKellen, che è un altro grande interprete di Shakespeare. Comunque sia Ralph Fiennes che Ian McKellen sono anche attori teatrali, soprattutto attori teatrali. Noi siamo Gandalf, ma è un attorone che Shakespeare lo conosce bene, e lui appunto era protagonista di quest'altro adattamento, anche questo in una, insomma, una rivisitazione moderna del Riccardo III, bellissimo, uno dei miei preferiti di Shakespeare, e meno moderno, ecco, però comunque fuori dal tempo in cui era ambientato. Sì, poco esportabile, è vero, ma non tanto perché noi Shakespeare non lo mastichiamo, appunto perché è un film che può diventare pesante. Io, non so, l'ho digerito meno, proprio perché trovo abbastanza sterili queste trasposizioni. Cioè, è ben fatta, si vede che Fiennes conosce l'opera, per carità, e la recita in un modo mostruoso. Insomma, la parte dell'interpretazione è sicuramente un buon motivo per vederlo, però ecco, l'operazione in sé non la capisco fino a un certo punto. Cioè, rivendere già teatro, Shakespeare si rifà in forme diverse, cioè è sempre stato così. O l'Otello si gira anche in Africa, lo mettono in scena con Desdemona che ha l'AIDS invece di morire come muore nell'opera, cioè è una cosa che si fa spesso. Quindi nel cinema appunto è come volerlo vendere a un pubblico diverso, ma poi il pubblico diverso non risponde, come hai detto tu. Quindi sì, per noi che magari apprezziamo un po' di più funziona, però sarebbe meglio vedere a teatro una bella rappresentazione di Shakespeare a questo punto. Molto bello, molto ben diretto, mi è piaciuta quell'ultima inquadratura, hai spoilerato il finale, ma insomma il Coriolano è abbastanza conosciuto, e poi comunque insomma si chiama dramma storico, si sa finire, però è bellissimo quell'inquadratura, e poi appunto anche questa cosa delle musiche, per ovvie ragioni non sono presenti come in altri tipi di film, non sono proprio presenti se non sbaglio, quindi è proprio incisivo, è molto forte. Mi è piaciuta questa messa in scena, i colori, questi attori, anche Gerard Butler, ecco, la cosa veramente straniante per me è stata Butler che recita Shakespeare, non avrei mai pensato, sì, l'accento ce l'ha, però non avrei mai, e poi molto bello, sì, il rapporto, questo è un merito di Shakespeare, comunque come viene tratteggiato il rapporto con la madre, cioè la moglie messa da parte e la madre che è quasi una madre, comunque a Roma era già più, un rapporto così morboso era già diverso, bello, sì, funziona. Non so, non mi ha sorpreso il fatto che tu l'abbia scelto tra i memorabili. È un'operazione interessante, ma secondo me non va oltre questo. Ma invece il Monco ha visto Las Acacias. Ecco. E qui Alex Diro si è messo a ridere tutto il tempo, anche, odia anche gli argentini, eh? Un uomo che ha un mucchio di odi, per quello che è sempre impegnato. Sì. Allora, Las Acacias, non mi ricordo più cosa voglia dire, Las Acacias. Le Acacias, sì, è così semplice, va bene. Allora, Las Acacias. Le Acacias. Aspetta. Abbiamo ci deciso contro Google Translate, dai. E dà l'esatto risultato, Las Acacias. È spagnolo, messicano è spagnolo, no? Messicano, è argentino. Comunque sì. Appunto. Sì, vabbè. Le Acacias. Ah, vedi? Non è un film che parla di Cacace, Francesca Cacace, no? Perché non lo fanno più la tata? Quanto era bello, oddio. Dedicheremo una puntata, è una raccolta firme anche. E allora, se avete visto il trailer, che non so bene se sia trailer o sneak preview, quelle robe lì, insomma, sneak peek, eccetera, Praticamente avete visto tutti i dialoghi del film, perché in quei due minuti si vedono praticamente sì, tutte le volte in cui i due protagonisti parlano. Il film dura 82 minuti, che insomma non è una lunghezza infinita, ma appunto i dialoghi saranno 9, massimo 10. È la storia di Ruben, un camionista argentino che deve portare il suo carico di legna dal Paraguay a Buenos Aires. E ha preso un accordo con il suo datore di lavoro di trasportare una donna che si chiama Jacinta e sua figlia, anche se lui all'inizio non sa che ci sarà anche la figlia di pochi mesi, Anahi, di portarla appunto insieme a lui a Buenos Aires. Allora, sono due persone molto diverse tra loro. Una, Ruben, è un camionista taciturno che appunto si fa tratte lunghissime in solitaria e non ha granché da dire. Lei invece è molto timida e sta sempre dietro alla bambina e soprattutto ha un po' di timore nei confronti di Ruben, questo rude camionista però dal cuore d'oro. E quindi ovvio che tra i due non c'è proprio dialogo. Appena poi uno dei due tenta di parlare oltre il tempo, oltre la strada, insomma, di parlare di qualcosa di più serio, per esempio della famiglia di lui o della famiglia di lei, ecco che si tirano di nuovo indietro e non parlano più per almeno una decina di minuti, perché lui ha un figlio di cui non vuole dire nulla e che molto probabilmente non vede mai, e lei molto probabilmente ha dei problemi con il marito, con la famiglia, e per questo si sta trasferendo non a tempo determinato, indeterminato, ma insomma fa avanti e indietro, però non parlano e quindi c'è poco da dire su di loro. Però in tutti questi silenzi, praticamente il film è tutto ambientato dentro la camionetta, la petta. E cos'è? L'ape. L'ape carsi, vabbè, non credo. La carlinga, la motrice, insomma, è tutto davanti. Nell'abitacolo. Abitacolo, ecco, madonna, l'abitacolo della motrice. E nonostante non dicano niente, però trapelano da questi silenzi tutte le loro emozioni, e la voglia di comunicare, la voglia di aprirsi, ma poi si bloccano, non hanno niente da dire, insomma. Nonostante appunto i dialoghi sono pochi, dice tutto quello che ha da dire. Non sapevo che è andato pure a Cannes, questo primo lungometraggio di Pablo Giorgelli, che origini italiane, ha vinto pure a Cannes, non solo il premio ACID, che non so cosa sia, è una sigla, ma non riesco a trovare il significato, ha vinto il premio per dei giovani critici, ha vinto la Camera d'Oro, e poi oltre a Cannes è riuscito a vincere anche al British Film Institute Award. Quindi insomma è difficilino, perché già raccontarlo a uno scende tutta la voglia di vederlo, però merita tantissimo, non è neanche lungo, e insomma se riuscite, se anche se siete insonni, guardatevelo, perché è una bella cura. E vabbè, non l'ha visto nessuno. Non l'ha visto nessuno, dormivo. Passiamo invece a Innkeepers e ce ne parla Intrinseco. Va bene, sarò breve perché i due film di cui parlerò dopo, cioè questo e quello dopo, ne ho già parlato un po' nelle rubriche, ma tanto non le legge nessuno, quindi ne approfitto. Sì, dunque Innkeepers, anche questo è del 2011, mi sa che ho scelto solo film di quell'anno. È uno dei primissimi film, comunque ne ha già fatti un po', di Ty West, ma credo si dica T. È un regista molto giovane, credo ormai sui 28 anni, 29, ma 25 aveva già girato due ottimi horror che, se tutto va bene, insomma, saranno dei punti di riferimento, spero, per il futuro. Dunque, questo Innkeepers, se non sbaglio è... sì, no, niente, è l'ultimo, perché no, il film non ne sta facendo cortometraggi, ed è una ghost story piuttosto classica nel vero senso del termine. Lui spesso parla di horror riferendosi a Shining di Kubrick, che evidentemente è un punto di riferimento a livello stilistico più che altro, quindi un horror che non risponde proprio a quello che vediamo nelle sale tutti i giorni, quelle schifezze che di solito arrivano, quindi poco sangue, poca violenza, soprattutto atmosfera, silenzi, regia che si sente, anche se molto discreta. La trama in breve, come si intuisce dal titolo, insomma, il film è ambientato in un hotel. Un hotel che è vicino alla chiusura, prossimo alla chiusura, perché per ovvie ragioni è deserto per tutto il tempo e quindi al momento è occupato da pochi clienti, se non sbaglio addirittura solo da una donna e da questi due custodi, portieri, comunque camerieri che se ne occupano negli ultimi giorni di vita dell'edificio. Solo che questi due hanno, in particolare l'uomo, che è interpretato comunque da un altro attore semisconosciuto, Patili, è un appassionato di paranormale, quindi ha questo sito su cui pubblica una serie di filmati, di foto, in cui vuole dimostrare l'esistenza dei fantasmi, in particolare di un fantasma che infesta questo Yankee Peddler Hotel, che è il fantasma di una donna, non ricordo come si chiama, Madeline O'Malley, che è un'allegra sposina che è andata in viaggio di nozze in questo hotel con il marito, poi è stata abbandonata e quindi si è tolta la vita. Poi questa donna, insomma, questo cadavere era un peso evidente per i gestori dell'hotel, quindi lo hanno nascosto probabilmente nelle cantine, ma non si sa, insomma, è bello anche questo, perché la storia del fantasma non è importante, non ci deve essere il colpo di scena, è solo il motore dell'azione ed è deve rimanere nel mistero, deve essere ambigua come storia, non avere una sola versione. E quindi i due protagonisti passano il tempo a registrare con un microfono apposito nelle varie stanze i suoni, a riprendere quello che può succedere, non succede mai nulla, tranne appunto quest'ultima giornata in cui la protagonista nel primo turno li guarda, rimane sveglia e comincia a assistere a una serie di fenomeni, voci, pianti, pianoforti che suonano da soli, quindi proprio stilemi classici dell'horror. E fin qui niente di nuovo, insomma, sembra piuttosto banale, in un certo senso lo è, non è la storia l'importante. È il modo in cui viene messa in scena, perché questo T. West ha, appunto, di Palau di Shining, ha un'idea dell'horror abbastanza rivoluzionaria, ma in realtà appunto il contrario, cioè ha capito che l'horror è andato in una direzione che è controproducente per il genere, tranne per i produttori ovviamente, e quindi ha deciso di levare dall'horror tutto quello che non va, quindi tutto, cioè lo svuota di tutto quello che siamo abituati a vederci, quindi sangue, violenza, frenesia, telecamere a mano, del POV, o che ne so, parodie, controparodie, qualsiasi cosa che sia stata fatta negli horror negli ultimi anni, è ridotto all'osso, una regia non movimentata, comunque una telecamera che una macchina da presa, anzi scusate, che viene usata, si muove, si segue i protagonisti, ma insomma fa anche movimenti che non siamo più abituati a vedere negli horror, inclinazioni particolari, zoom, oddio, non si vede uno zoom da quanto, sì, a volte è brutto da vedere, ma insomma è una cosa che non si trova più in certi film, eppure lui la sa usare in un modo che dice, ah cacchio, ci siamo dimenticati dello zoom. E poi in questo caso, questo film che insieme al precedente, House of the Devil, costituisce un po' un dittico di dell'horror in questa nuova versione, è un po' più ironico rispetto al precedente, è una, non dico una commedia, però ha degli elementi della commedia. Questa protagonista, interpretata da Sarah Paxton, di cui magari parlerò un attimo dopo, è un personaggio atipico, è una la classica perdente, insomma, vive in questa cittadina semideserta, lavora in questo hotel semideserto, non ha ambizioni, l'unica cosa che la colpisce è la presenza di un'attrice nell'hotel, che è un'attrice legata alla sua infanzia, interpretata da Kelly McGillis, e anche questo incontro però mette in luce la sua mediocrità, insomma è un personaggio squallido in un certo senso, molto atipico, e la vediamo gironzolare per questi corridoi in una serie di situazioni strane, tende, diciamo, a spaventarsi per qualsiasi cosa succeda, quindi c'è anche un capovolgimento del gioco, del salto sulla sedia, che negli horror, soprattutto nelle ghost story, è la normalità, cioè lei si ritrova a spaventarsi per cose che noi non troviamo spaventose, non perché sia fatto male il film, ma perché c'è una volontà da parte del regista di farci avvertire il pericolo prima del personaggio, quindi non so, il compagno di lavoro le arriva alle spalle, lei si spaventa, noi lo vediamo arrivare, no, per cui vediamo solo la sua reazione, che spesso è comica, lei è asmatica, quindi si attacca all'inalatore, comincia a urlare, a dire un sacco di parolacce, cade per terra, prende un sacco di culate, insomma, me l'ho trovato spassosissimo da questo punto di vista. Poi, come nel film precedente, insomma, ti affeziona al personaggio e T-West alla fine la fa soffrire nel modo peggiore, senza dire nulla, ma insomma è una ghost story, si deve spaventare, deve soffrire, insomma si sa come andrà a finire più o meno. E quindi un esperimento in un certo senso molto particolare, riuscitissimo. Avrei scelto l'altro film, però è un po' troppo vecchio, non sbaglio, del 2009. Questo è altrettanto valido, però meno incisivo forse, ed è importante, io l'ho citato soprattutto perché è un esempio di come l'horror magari dovrebbe cercare di rinnovarsi. Paradossalmente, dicevo, non sempre si rinnova, perché anche in questo modo è un più un rivolgersi al passato, però quando l'horror ufficiale, quello che arriva al cinema, non dà quello che uno cerca, magari il cinema indipendente riesce a offrire un'alternativa, però purtroppo appunto rimane cinema indipendente, che chissà, magari la fortuna è proprio quella, non avere soldi, non avere produttori alle spalle. Però sarebbe bello vederlo finanziato, questo tipo di horror, come anche Kill List di cui parlavo prima, che magari insomma è ancora meno conosciuto. Io. Prego. L'ho quasi visto tutto, purtroppo per la festa di laurea a cui devo andare con mia cugina Michela, non sono riuscito a vederlo tutto, però mi manca poco. Sì, a me è piaciuto moltissimo, quel che ho visto mi è piaciuto molto, infatti non vedo l'ora di finirlo. Non posso dare un giudizio definitivo perché appunto manca la parte più importante, però... ma nei film di T-West il finale non è la parte più importante, perché come hai visto sono 80 minuti, 90 minuti, 60 minuti sono di preparazione, un centinaio, ok. I tre quarti di film sono di preparazione, cioè non succede nulla, o se succede è apparentemente innocuo. E poi c'è questo finale che è spesso la parte peggiore, lo dico anche nel film precedente, quasi rimpiangi il momento divertente che c'era prima. Però è davvero... Poi lei è splendida, mi sono dimenticato di finire su di lei, su Passara Paxson, ho già detto anche nella rubrica, comunque un'attrice che viene da un cinema orribile per adolescenti, biondina, classico viso angelico, gli occhi chiari, gli occhioni chiari, insomma la faccia da angioletto, e qui lui la rende l'opposto, la taglia i capelli, ha messo il cerchietto, una magliettina rossa, il jeans, le unghie con lo smalto nero, che se ne sta venendo, insomma, è proprio l'antitesi di quello che è di solito sullo schermo, ed è fantastica, c'è una serie di scene in cui è di una naturalezza grandiosa, è davvero una scema fantastica, e è difficile non innamorarsene, ed il punto forte di T-West è questo, ti prende una protagonista attraente e simpatica e ti ci affezioni e poi te la distruggi, perché è fantastico, davvero consigliato. Monco, vuoi aggiungere qualcos'altro della festa di tua cugina? E che ci sarà Sarah Paxton, vieni con me. Ok. Sarah Sussus. Allora, vabbè, passiamo al prossimo film, vi parlo di The Secret of Kells, che ha visto anche il Monco e già mi ha dato del pretozzo. Allora. Secret of Kells... è una libera interpretazione della leggenda della scrittura del libro di Kells, che è un Vangelo manoscritto miniato risalente all'Ottocento, realizzato per l'appunto da monaci irlandesi dell'abbazia di Kells, e che è considerato una delle più grandi opere d'arte dell'epoca. Allora, nel film vediamo l'abate Kellac di Kells, che è ossessionato dalla costruzione delle mura che dovrebbero proteggere l'abbazia dalle ripetute razzie dei vichinghi, e ne è ossessionato a tal punto da costringere i monaci a sospendere la scrittura e la creazione di miniature per lavorare nei cantieri di queste mura, insomma. Delle mura di Kells, diciamo le cose come stanno. Quindi, vittime di questa ossessione, ovviamente, è anche Brendan, che è il nipote dell'abate, al quale è stato proibito di uscire fuori dalle mura. E comunque non gli viene permesso di dedicarsi alla creazione di miniature. Un giorno arriva nell'abbazia uno dei più grandi miniaturisti dell'epoca, che è il fratello Aidan, che comunque intuisce il talento nascosto del ragazzo e lo inizia alle arti e alla creatività, mostrandogli quindi il libro di Kells e promettendogli di lasciarglielo completare se troverà delle bacche per produrre il giusto inchiostro. ovviamente la ricerca di tale bacche porterà Brendan ad avventurarsi nella foresta, al di fuori delle mura, e in questa foresta conoscerà Aisling, che è una sorta di spirito della foresta con cui stringerà amicizia, uno spirito della foresta che ha una prende le forme di una ragazzina, insomma. L'elemento religioso è forte, sì, però non si nomina mai Dio. Vabbè. E io, a parte io non sono né cristiano praticante, cattolico praticante, niente, quindi cioè non mi puoi dare il pretozzo assolutamente, cioè sono esatto opposto. Ma soprattutto trovo che anche i personaggi, i monaci stessi ad esempio, non cadono nel cliché dei predicatori pedanti, cioè piuttosto vengono rappresentati come degli artisti che in un certo senso sono costretti dalla società, tra virgolette, a rendersi utili, quasi che l'arte diciamo non sia utile in questi momenti di forte di terrore nei confronti di questi vichinghi, insomma. E, diciamo che questa minaccia di vichinghi del quale l'abate è ossessionato per gran parte del film è una sorta di minaccia in stile deserto dei Tartari di Buzzati, insomma c'è questa paura di questi vichinghi, però sti vichinghi non arrivano mai, ovviamente vabbè arrivano e gli fanno comunque il culo perché cioè, non bastano comunque le mura a fermare l'ondata dei vichinghi. E lì insomma c'è una sorta di presa di coscienza di questo personaggio che si rende conto che effettivamente ha sbagliato a costringere comunque la gente a prodursi nella realizzazione di quest'opera. Comunque, dicevo, l'elemento religioso c'è, però a farla da padrone in un certo senso sono i simboli pagani, perché comunque Aisling è una sorta di essere magico, una sorta di spirito della foresta, una fata, che comunque anche dal punto di vista visivo in certi frangenti quando si trasforma nella sua forma ferina ricorda il lupo della principessa Mononoke. Mononoke è giapponese. Mononoke, vabbè no, inglese dai no. Inoltre poi vabbè c'è diciamo lo strumento per realizzare le miniature migliori sta in mano a una certa entità malvagia e in un certo senso si vuole quasi affermare che il tocco dell'artista sia una sorta di qualità fuori dal comune che implichi una sorta di patto col diavolo, insomma. Poi vabbè, dal punto di vista visivo questa entità ricorda un po' anche il serpente di Nietzsche che si inizia a mordere la coda, insomma, quando viene privato di questo strumento. E dal punto di vista visivo quindi ci sono molti richiami sia anche al Signore degli Anelli, ad esempio l'abbazia di Kells è rappresentata quasi come la torre di Saruman, insomma, anche con il cortile delle mura circolari. Abbiamo detto Aisling è quasi il lupo della principessa Mononoke. Lo stile invece dei personaggi richiama lo stile di Candy Tartakovsky, che è autore della serie animata in 2D dei Clone Wars, mentre invece visivamente il film richiama un po' le miniature di cui si parla, insomma, quindi non c'è uno studio prospettico, tutto si trova sullo stesso piano. I colori sono campiture piene a tinta unita che poi in determinate condizioni di luce, in determinati effetti visivi si trasformano in una sorta di pastelli, insomma. E niente, io l'ho trovato un film che dal punto di vista visivo molto originale e dal punto di vista tematico secondo me è un film che ha diciamo la forza educativa dei film Disney, insomma. E la cosa che mi è piaciuta di più è il fatto che coniuga su tutti i punti di vista la semplicità con una certa complessità diciamo di tematiche, comunque di simboli anche. Non so, il Monco l'ha visto, l'ha disprezzato, presumo, e quindi sentiamo, tanto, sentiamo che ne dice lui invece. Vabbè, innanzitutto è giusto parlare di questi film d'animazione minori, perché insomma tra Pixar, DreamWorks e Miyazaki il mercato sembra chiuso lì, sembra che nessuno di qualsiasi altra nazione possa fare un film d'animazione, invece c'è questo o anche la Vie d'un Chat che è stato candidato all'Oscar quest'anno, francese. Ah sì, scusa, forse non l'ho detto, ma è una produzione, come stavi appunto puntualizzato, belga, francese e inglese, quindi tutta europea, insomma. Ecco, quindi sì, giusto valorizzarli, giusto parlarne, eccetera. detto questo, insomma, ho trovato qualcosa che non mi è piaciuto, qualcosa che mi è piaciuto, eccetera. Non lo disprezzo come mi presentavi, come pensi tu. Però ecco, sei un predozzo allora. Sì, sì, sì, sono un clericollo. Per me la componente cristiano Malgioglio religiosa è piuttosto alta. Insomma, questa scrittura del libro sacro dei preti lì, eccetera, mi è sembrata, insomma, poi a me dà proprio fastidio appena ne sento solo l'odore, quindi forse l'ho un po' l'ho sentita troppo io. Poi magari è minore, come ne dici te, ed è più alla, insomma, è maggiore l'aspetto pagano, però insomma mi ha dato fastidio, e soprattutto perché come si dice, le miniature mi hanno ricordato molto i disegni religiosi, soprattutto quelle favole religiose, tutte disegnate in quel modo. Però dall'altra parte mi è piaciuto anche quel modo, perché quel modo di disegnare quel disegno, perché i personaggi squadrati o molto rotondi, quando vanno a mettersi tutti assieme, a volte formano un'unica figura che è molto gradevole. E boh, poi mi chiedevo, ma è possibile fare un film d'animazione senza parlare di natura? Poi Miyazaki sembra aver lanciato un trend, anche la Disney prima, però bisogna sempre parlare di natura e sempre bene della natura. Ovvio che bisogna parlare bene, soprattutto dell'ecologia, però si può anche parlare d'altro. Per esempio, ma se ne potrebbe anche parlare male, perché insomma non... Cioè... Ma no, sì, perché... Mi viene in mente un Leopardi, comunque... Se ne potrebbe parlare male comunque. Ma che c'entra? Almeno degli aspetti, ma che c'entra? Non idee diverse di natura, non è la natura quella che vedi nei film d'animazione. O parli di parlare della natura nel senso di lo spirito delle cose. Sì, comunque. No, sì, si può dare quel tipo di visione, però è vero anche questo. Sì, sì, non so. Devo dire questo. Sì, proprio una tendenza tutta però... asiatica, perché anche prima, nei primissimi, c'è sempre questa immagine della città, di qualcosa che schiaccia la natura, i futuri terribili, grigi perché non ci sono gli alberi, è vero, anche nei videogiochi. Cioè, questa idea... È diventato un cliché. Sì, ma per loro è proprio, credo sia una cosa che è tradizionale ed è sempre presente. Per noi ha meno valore, sembra appunto un ripetere però... quel tipo di stilemi, ma non capisco neanch'io se... La Pixar sta seguendo il trend, perché per esempio Wall-E, più naturalista, sì, ecologista di così, se muore, e questo qui è un altro, nel senso, sembra che i bambini bisogna inculcarli all'ecologia, giustissimo, per carità, però siamo al 25esimo film di fila, credo che l'abbiano capito. Facciamo un re dei Toby 3, dai, che no? Dove il cane sbrana la volpe, però. No, beh, vanno in città e hanno dei lavori, non lo so. E poi ne esce una cosa tipo Over the Edge, tipo Al di là della siepe, come si chiamava quel film, La gang del bosco. No, anche quello è ecologista. Vabbè, ma scusa, lo stesso film d'animazione, specialmente questo qui, ma come anche i film Disney, i film di Miyazaki, comunque sono portatrici di un messaggio positivo, quindi cioè, come fai... Se comunque ci metti l'elemento naturale, devi parlarne bene in un certo senso. E non ce lo metti. Ho capito, di che parli? Beh, la relazione anale tra due ragazzotti, non so, ci sono altri temi, Sì, capito. No, vabbè, non è che non siano stati affrontati altri temi. Magari sì, c'hai ragione tu nel fatto che comincia a diventare un po' ridondante questa cosa. Rapunzel non parlava di ecologia, a me è piaciuto da matti. Vabbè, ma ci sta verde ovunque in Rapunzel. Vabbè, ma che c'è? Ho capito, vabbè, però... Sì, no, vabbè, sempre non è così presente, cioè non è onnipresente, ecco, però è vero che è sempre molto sullo sfondo questa cosa. Perché sono belli da disegnare. Ma forse perché c'è questa idea che il film d'animazione è il cinema ecologico, che poi non so se sia sempre così, però si associa, o forse perché così Hollywood può dire, vedete, noi i messaggi positivi li lasciamo. Nei film per destinati ai ragazzini, magari, ma li lasciamo, non lo so. Toy Story. Sì, appunto. Cars. Sono vabbè, tutte ma appunto, che vedi, non c'entra ci niente. Sono. No, boh, appunto. Quindi, la conferma è che la pista regna. Sì, vabbè, sì. Per fortuna si libera sempre un po' dai cliché, dai... Sì. Vabbè, ad esempio parlare di Miyazaki cliché secondo me è un po' ingiusto, nel anche perché comunque lui ha una sua... queste cose le faceva già 20-30 anni fa e comunque è stato uno dei primi, e poi comunque lo faceva nell'ottica della cultura giapponese, che è abbastanza diverso, cioè, non, sì. Per noi è un'emulazione, per loro c'è sempre, se parli di spiriti, se parli di dei, se parli di cioè, c'è sempre un... ma mi viene in mente anche una cosa che non c'entra nulla, però... sogni di Kurosawa, anche lì c'era questa cosa, no? L'inquinamento, non so, è proprio presente per loro, non so, sarà che fanno talmente tanto danno sulla natura che si sentono in colpa e devono lanciare un po' messaggio. Beh, ad esempio anche Miyazaki comunque ha fatto film in cui l'elemento naturalistico è un po' messo da parte, mi viene in mente, non so, Porco Rosso. Sì, vabbè, sì. Vedi anche lì, vedi? Però un Totoro, Totoro che magari ci pensi meno, c'è anche lì ed è molto pesante anche lì. Anche in Ponio. Infatti. Il recente Ponio, ma sì, cioè, vabbè, secondo me la spiegazione è da ricercare nel fatto che comunque è un cinema comunque provvede, sì, vabbè, è un cinema educativo. Si pone comunque l'obiettivo di educare i bambini e va bene, sarà, sì, l'avranno capito i bambini, però comunque qualcuno pensa sia opportuno ancora, va bene, batterci sopra, insomma. Però si può insegnare ai bambini anche altre cose, non so, a picchiare le nonne, come riuscire a programmare il proprio registratore, perché non fare un film su quello, non so. Ci sarà il film della Pixar sulla registratore. No, sui pensieri di una ragazzina, nella mente di una ragazzina, quello sarà interessante. E vediamo. Sì. Soprattutto le ragazzine di oggi sarà una cosa meravigliosa. Sarà un film con una sola ambientazione, il vuoto. Il vuoto. Non ho capito, ma ascoltatrici si snobbano. No, non ci snobbano, sono fedeli. E vabbè, insomma, quindi abbiamo detto Secret of Cats film dell'anno, passiamo a Everything Must Go e ce ne parla il Monco. Viva i One Direction, viva i One Direction, così pareggiamo. Alla grande. Allora, Everything Must Go è definibile come la solita commedia indipendente americana, però come al solito c'è qualcosina in più della semplice definizione. Allora, innanzitutto auguri a Will Ferrell, che compiva gli anni ieri, che qui è protagonista, e il primo lungometraggio di Dan Rush, non semi sconosciuto, totalmente sconosciuto, che ha portato questa commedia sia a Tribeca, il festival di De Niro a New York, sia al London Film Festival, dove ha ricevuto parecchi consensi positivi. La storia di, come si chiama, Nick Halsey, che è Will Ferrell, ancora una volta in un ruolo, sì, ho detto che è una commedia, però non è che ci sia da ridere, non è la solita commedia demenziale di Will Ferrell, è molto più serio ed è un ruolo totalmente serio. Insomma, Nick un giorno torna a casa, anzi, mentre è al lavoro viene licenziato perché è un non proprio un ubriacone, ma ogni tanto tende a esagerare, e per questa sua natura viene licenziato, e quando arriva a casa scopre che tutta la sua roba è sparsa sul giardino davanti a casa, la porta di casa è sprangata e non ha nessun modo di entrare. C'è una lettera lasciata dalla moglie che gli dice cerca di portare via tutta la tua roba, tra noi è finita, c'è sempre di mezzo la sua ubriachezza molesta, e quindi insomma deve portare via tutto in breve tempo, perché lei ovviamente deve tornarci a vivere lì. La reazione di Nick è quella di non fare un cazzo, si siede lì e dice va bene, questa è casa mia, allora me ne sto sul giardino, è comunque proprietà mia e non porto via niente, perché dovrei. Solo che dà fastidio alla gente, ai vicini, e come si dice, e i vasi, dà fastidio ai vicini che chiamano la polizia, perché a quanto pare, nonostante sia casa sua, non può vivere lì sul suo giardino, perché appunto non è proprietà, non è una vera e propria casa, insomma. E Nick si lascia andare completamente, non solo non porta via la roba, ma non è che pensi al suicidio, ma non pensa a vivere la sua vita. per lui è finita, si ritrova senza casa, senza moglie, senza lavoro in una giornata sola, e perché dovrebbe fare altro? Si mette lì, va a comprare la birra, seduto sulla sua sedia, e non fa niente. Lo aiutano ad uscire da questa crisi che ha, e lui di rimando riuscirà ad aiutare le persone che lo aiutano. Un ragazzino di colore obeso che gira in bicicletta lì per il quartiere, che vuole imparare a giocare a baseball, e gli chiederà a Nick se può, e la vicina di casa appena arrivata, che è Rebecca Hall, che conosciamo bene, che ha dei problemi col marito, e insomma Nick riuscirà a dare una mano a entrambi, e appunto riuscirà anche lui a terminare questa sua fase di crisi. Sì, appunto, sembra la solita commedia agrodolce, dove c'è un po' da ridere, ma c'è anche molto da pensare, però è ben fatta, è ben riuscita, e poi per l'ennesima volta, vabbè, non sono poi così tante, però Will Ferrell, quando fa il serio, dimostra di essere uno degli attori più versatili della nostra generazione, e non mi vergogno a dire che sono innamorato di lui, ecco. Non l'ha visto, l'ha visto qualcuno, no? No, io solo speravo che non saremmo mai arrivati al punto di parlare di un film di Will Ferrell, dai. Sei un prezzo. Vedi, non capisce niente di cinema. Ciucciva. Proprio un pretozzo. Quando uscirà Anchorman 2. E l'altro... Tra l'altro è uscito venerdì scorso un film di Will Ferrell in Italia, con lo suoi... La candidatura a cazzo, come si chiama? Sì, il candidato per caso, sì. Il candidato per caso. Che non è male. Con che cuore puoi parlare contro Will Ferrell se non hai visto i suoi film migliori? Mai li hai visti, poi, no? Appunto, io prima potevo dire no. Brendan alla pisella e non l'avrebbe capito. Insomma. Ma tu l'hai visto i film migliori di Brendan? Sì. Invece Intrinseco adesso ci parla del suo film. Sì. Ah, quindi proprio depauperato del mio scettro. Questo film che ne troverete adesso nelle sale si chiama Sara contro tutti. È un film che... La mia prima volta. Niente, ho sbagliato. Questa è la scaletta della prossima puntata, scusate. Parleremo prossima, quindi ricordatevi. Sì, dunque io parlo di The Woman, di un altro regista, di cui ho parlato nelle mie rubriche. Sì, esistono le mie rubriche. Se proprio le visite sono pieno di sé proprio. le statistiche parlano. The Woman, anche questo è del 2011, è vero, è tutto lo stesso anno, non volevo, che è l'ennesimo film, non mi ricordo quale, comunque non è già avviata come carriera, di Lucky McKee, anche questo americano, anche questo molto giovane. Che dire? La trama, che probabilmente sconvolgerà, che detta così rovina tutto, va bene. C'è questo capo di famiglia che si dà alla caccia nei fine settimana, e in una delle sue battute di caccia... Sembra il fratello di Will Ferrell, eh? Sì, ha quella fronte, quella fronte da cavernicolo e gli occhietti piccoli. E la voce. È vero. Sì, è vero, in lingua originale si sente molto. Cielo. Vai. E voi, vedi il film e poi vuoi parlare, pretozzo. Vai. Il figlio. Insomma, questo clone di Will Ferrell, molto meno simpatico, interpretato secondo me alla grande da Sean Bridges, un attore che ha finito la sua carriera probabilmente, insomma trova questa donna nel bosco, una donna seminuda che chiaramente vive allo stato brado, e qui apro una piccola parentesi, il film è basato su un romanzo di Jack Ketchum, che è uno scrittore americano folle, che scrive storie molto crude, una provincia americana molto sopra le righe, incredibilmente sopra le righe. E questo film è un seguito, anche se poi ha molto poco in comune, di Offspring, un horror in cui c'è in comune questo personaggio della donna, che però ha uno spazio diverso, il film ha un tono completamente diverso, è un horror più classico, quello precedente. Insomma, trova questa donna, interpretata da Pollyanna McIntosh, che è una moracchiona molto in carne, non è grassa, è in forma, insomma. E la cosa più ovvia a cui pensa è catturarla, tramortirla e portarla nella sua cantina, dove la incatenerà e la presenterà al resto della famiglia. e letteralmente, quindi moglie, figlio maschio, due figlie femmine, tra cui una bambina di pochi anni. E il suo intento è civilizzare questa donna, civilizzare secondo i suoi standard, per cui vedremo che col passare del tempo, quasi subito, si intuisce, comunque man mano che prosegue la trama, vedremo che quest'uomo ha un'idea della civiltà e della famiglia abbastanza particolare, è un violento, un misogino, è uno stronzo, peggiorerà sempre di più, farà venire fuori il lato peggiore. Insomma, quello che uno penserebbe davanti a una trama del genere, insomma, il classico elemento estraneo che viene introdotto in un nucleo familiare e lo sconvolge. In realtà qui è il contrario, cioè un'anomalia che è questa donna che viene portata in questa famiglia che sembrerebbe normale, ma appunto si rivela ancora più disumana della donna catturata. Il film è molto particolare, ha un tono che insomma lascia un po' straniti, è come dicevo, tutto molto sopra le righe, c'è l'esagerazione in tutto, dalle musiche, che forse sono l'unica cosa che davvero ho gradito meno, che sono troppo urlate, troppo forti. Un film del genere forse sarebbe servito meglio il silenzio, anzi, sicuramente. E però il resto è tutto su quest'onda, insomma, è un'esasperazione, cioè questa anormalità così eccessiva che sembra normale, quindi anche il personaggio della donna, che è una stranezza, diventa perfettamente normale. Quindi, man mano che passano i minuti, ci si trova davanti a una serie di situazioni che in un contesto diverso sembrerebbero assurde, invece diventano, non dico normali, accettabili, ma hanno un senso in questa realtà. E il film è, come un po' Kill List, è uno di quei film che puntano all'impatto emotivo. E penso, soprattutto per una donna, possa essere un film forte, abbastanza irritante e fastidioso. Sono scene umilianti, le definirei, ma non so se vanno viste in quest'ottica. Comunque sono forti. Questa donna viene denudata, maltrattata, violentata e lavata con un'idropulitrice in una scena che forse è una delle più forti del film. Insomma, quest'urlo strozzato. Mi piacerebbe parlare del finale, ma non posso, per evitare. Però insomma, il film è tutta una discesa agli inferi ed è un crescendo di tensione, di disgusto, di disapprovazione, che culmina al finale, che a mio avviso è abbastanza prevedibile come svolgimento, però è lì, è così, insomma, tant'è. Insomma, è, sì, l'unico difetto secondo me è queste musiche, questo rock adolescenziale è un po' troppo. Le musiche di per sé che non sono male, però così sparate a tutto volume, spesso diventano addirittura didascaliche perché sono legate a determinate fasi del film e spiegano un po' troppo, quando in realtà non servirebbe. Come dicevo, sarebbe stato meglio il silenzio. Poi il cast, che diciamo porta il film a un livello più alto, in particolare la donna in questione, che non ha nome, si chiama semplicemente The Woman, Pollyanna McIntosh, che non recita, semplicemente è incatenata in questa cantina e sporcata, umiliata, tende a interpretare più un animale che una persona, ringhia, morde. Insomma, lei probabilmente spicca tra tutti, è una... Sembra davvero una bestia. Sono le scene, una scena che tra l'altro si vede nel trailer, è molto bella. Il marito si avvicina troppo a questa donna selvaggia, lei gli stacca un dito a morsi e sputa l'anello nuziale per terra, per darvi un'idea del tenore. Anche se in realtà poi il sangue c'è, ma in realtà è una cosa marginale, non è quel tipo di horror. L'effetto forte lo fanno certe scene in cui magari il sangue nemmeno compare, più una cosa psicologica, insomma. La violenza contro la donna è qualcosa che penso turbi chiunque, quindi farà comunque un certo effetto, almeno certe scene in particolare. Poi, dicevo, Sean Bridges, che interpreta questo padre di famiglia violento, maschilista e viscido, che davvero è terribile, non fa granché, espressivamente è gelido, ma non credo, insomma... È un montanaro a tutti gli effetti, non serve che sia espressivo, però questo sguardo, questa faccia, questa freddezza lo rende, secondo me, grandioso a suo modo nel film. È davvero detestabile, non è facile un ruolo del genere, come non è facile quello della donna umiliata, non è facile quello dell'uomo che deve fare lo stronzo, per non dire altro. E niente, tutto qui. Vai, sì. Sarò telegrafico. non voglio offendere i gusti di Intrinseco, perché Innkeepers mi è piaciuto, ma The Woman, oddio, l'ho ritenuto una cagata pazzesca. Non vedo nessuna differenza con quelle boiate tipo Martyrs o quell'altra cagata che come cazzo, vabbè, quelle robe lì francesi, spagnole, eccetera, in cui bisogna arrivare a un'escalation finale del tutto ridicola. Io lo stavo gradendo fino a un certo punto, e fino a un certo punto della storia, fino a quando appunto arriva l'insegnante della ragazza a casa. Poi ho resistito fino alla fine a stento, mi è sembrata davvero una caduta di stile terribile. Parlavi delle musiche, sì, a parte quella dove lui la mira con il fucile, c'è sotto una canzone rock ridicola, oppure sì, non l'ho capita quella. Oppure quando lei è a scuola e si sente male, e tutte le altre invece sì, sono felici, che c'è sotto quella canzone, beh, vabbè. Didascaliche, appunto, lì quella, sì, in particolare. Sì, sì. Ma poi, a parte il fatto che sono brutte musiche, non servivano. Ma non sono d'accordo col paragone. Cioè, a me non sai benissimo come sono piaciuti quei film, ma per ragioni abbastanza chiare. Cioè, Martyrs intanto era mortalmente noioso, cosa che questo secondo me non è. E questo era uno dei difetti che imputavo al film in questione. E poi spara molto più in alto, se per me. Cioè, è un film che parla di misticismo, di religione, si prende molto più sul serio. Invece questo lo giustifico proprio perché ha un tono completamente diverso, ma proprio agli antipodi, soprattutto nel finale. Cioè, è chiaro che nel finale ha un'impostazione diversa, si prende molto meno sul serio, è tutto sopra le righe. E poi io penso che il finale sia la parte migliore, insomma, è quello che aspetti per tutto il film, che succede, è la giusta conclusione, lo strano dopo lo strano, anche perché in realtà poi non c'è roba peggiore prima. Il finale è solo, a parte quella cosa dei cani che non ho ben capito, però nell'ottica della famiglia disfunzionale ci sta anche quello. Ah, io non li digerisco questi generi, non riesco proprio a capirli, quindi no, io li paragonavo come struttura, cioè c'è questa lunga parentesi dove magari ti interessi e dici chissà come va a finire, poi c'è un'escalation del tutto gratuita nella maggior parte dei casi, e questo è sullo stesso genere, cioè deve per forza andare a finire in quel massacro, è il modo di dire, non sto spoilerando. Vabbè, sì. Se sì, non lo so, però l'ho trovato gratuito, con un po' più di finezza si poteva fare una cosa diversa, e invece no, vabbè. È un film molto grezzo, su questo non d'accordo, ma secondo me serve allo scopo, e poi sì, appunto, alla fine è sempre quella, è sempre inevitabile, ma credo in questo caso fosse realmente inevitabile. C'è un tipo di storia che va in quella direzione, cioè, mentre altri sono gratuiti nel vero senso del termine, cioè mi viene in mente All'Interieurs, che ho gradito ancora meno di Martyrs, dove c'è il misticismo, la vendetta, l'alone di mistero, tutto. Invece qui, insomma, dai primi minuti sai che andrà così. L'importante non è il fatto che non è un torture porn come può essere Martyrs o... È di sicuro, da quel lato lì è di sicuro superiore, nel senso, anche come fruibilità, non è noioso come quegli altri due, però dico come struttura finale, cioè, tac, sì, beh, e tac. Deve andare in quel modo, però penso che fosse inevitabile, cioè, è un romanzo scritto in questa forma, non so quanto abbiano, già il fatto che ci sia dietro un libro, secondo me lo eleva un po' sopra quelli, sì. Poi io credo che fosse inevitabile, è un tipo di storia che non poteva che essere così. Secondo me deve essere eccessivo, è tutto strano, anche la trama, cioè non ha senso, è un'iperbole, quindi anche il finale deve essere iperbolico. Non so, poi ecco, forse l'unica canzone poi che mi piace è quella del finale, che non so perché. Boh, lei poi è grandiosa, anche la scena più trash, che sono quello che hai visto, che succede, non so, io trovo che tutto sia al suo posto. È un film che magari un altro avrebbe fatto in modo più raffinato, ma questo va in mente lo scrittore e lo sceneggiatore e il regista, quindi credo che l'avrei preferito su carta, in definitiva, soprattutto per il finale, l'avrei visto meglio. Sono letto, curioso di sapere come è scritto, sì, anche perché sul film si entra in gioco cose che nel romanzo probabilmente non ci sono, sì, non ho idea, sono romanzi che non leggeremo perché almeno non in italiano, che ha scritti parecchi e non in Italia è sconosciuto, almeno io prima non lo conoscevo. Chiudo con l'ultima nota positiva, anzi forse per il mio caso l'unica, per quello che ho detto, vabbè. Però regia buona, forse ha aiutato molto il Blu-ray che si vedeva da Dio, però mi è piaciuto molto come, soprattutto alcune scene come le ha dirette, quella dove gira attorno a due protagonisti che si stanno strozzando, non dico cosa, sì, però sì. Lì che gira molto attorno, magari un po' lunga, però sì. Sì, anche quella poi è un crescendo, tutto un po', sì. Vabbè. Vabbè, dai. Genevieve Raton. Ormai siamo a un'ora e 36 di puntata. E tu volevi fare 90 minuti? Anche... No, cioè io ormai ho detto 90 minuti. Tra l'altro l'hai visto il link che ti ho postato? Zitto, ne parliamo la prossima volta. Ne parliamo la prossima volta. Va bene, ok. E vabbè, allora chiudiamola qui, dato che non abbiamo più niente da dire. Io doveva sì. doveva esserci un altro film, però vabbè, insomma, il Monco non ha fatto i compiti a casa e quindi è venuto solo con soli tre film. 4-4-3, io sento. Tra l'altro noi due l'abbiamo visto, Dante, quindi sei proprio l'unico. Vabbè. Però tu già ne hai parlato, quindi. Sì, me lo sono consigliato, sì. Lo riconsiglierò quando sarà il caso, dai. Vabbè. E vabbè, allora con questa considerazione ci lasciamo. Dovevamo fare una chiusa, io vi ricordo, però. Sì. Dovevamo fare una chiusa che. Una cosa veloce, solo per... No, vabbè, per trovare le dovute conclusioni. Questi film non sono arrivati, quindi. Secondo voi, che dite? Se sono film che dovevano arrivare, a parte i singoli film che non sono piaciuti, va bene, questo è venuto fuori, ma in generale. Rispetto a quello che ci siamo ritrovati nelle sale, soprattutto in questo primo trimestre, vi rode ancora di più non aver visto queste cose? Sì, ma io dico, diventiamo una nazione come le nazioni del nord Europa, mettiamo i film direttamente in lingua originale con sottotitoli al cinema e boom, quindi li vedremo tutti, qualsiasi. Dici che basta? Se non li comprano comunque, sì, vabbè, questo vabbè, è un viaggio che sicuramente rallenta la distribuzione, però... Secondo me è proprio una cosa di mentalità, ma poi almeno i film che ho scelto io, sì, tutti e quattro, non è neanche l'Italia, cioè sono film che, a parte vabbè, gli horror, che per carità non li vendi come puoi vendere un The Raid, però cazzo anche The Raid non è arrivato al cinema, dai, The Raid è una bomba, è un action che anche alcuni dei vostri, cioè non si spiega The Grey è, anche in America, io mi ricordo quando sono andato a New York a fine maggio, era in pubblicità sulla pay per view, però è un film che puoi benissimo vendere al cinema. Anche fuori dall'America, anzi, soprattutto. Ultima, poi puoi andare a sta festa, bastardo. considerazione sull'Asia, sulla Corea ho già detto, su Hong Kong, che mi piace sempre di più, devo notare che sembra che ci sia un vuoto dalla generazione di John Woo e di Tsui Hark e di Johnny To, di quell'action, di quel modo di fare, perché adesso, a parte loro che continuano comunque a sfornare buona roba, sembra che non ci sia dei nuovi giovani capaci di fare quel genere di cinema, quindi ho sentito un po' la mancanza della Hong Kong action, perché Tsui Hark sta facendo gli storici, John Woo pure, Johnny To si è dedicato alla finanza, fa qualsiasi genere di film, ma ci deve mettere sempre la finanza. E quindi spero che ci sia un nuovo John Woo, un nuovo Johnny To, eccetera. Vabbè, con questo abbiamo finito, ci sentiamo per la settima puntata in cui torneremo a parlare di news, di trailer e di film in sala. Salutate i nostri ascoltatori, dai, su. Cazzo, che figa! Mi chiamo Sara Tommasi e mi piace succhiare i vasi. Alla grande. Ciao a tutti, ciao. Ciao. Stop.